Siamo con Pietro Zampetti dello Spazio Sinestetica di Roma per parlare dell'inaugurazione conferenza sabato 5 maggio di 1987-2017. Roma allo specchio, l'immagine della capitale tra passato e futuro. Benvenuto. Grazie, buonasera. Ci racconti un po'? Sì, la mostra che inauguriamo domani è una mostra appunto che si chiama Roma allo specchio, è stata curata da Enrico Anzalone e Maurizio Coccia ed è una mostra che in realtà nasce da un'altra mostra, perciò si chiama anche Roma allo specchio perché confronta due cose. La prima mostra è stata fatta nel 1987 in una triennale di Milano. Ed erano una serie di progetti di architettura sulla città di Roma, diciamo di riflessioni progettuali sulla città di Roma. E a distanza di 30 anni, Franco Purini, che era uno dei partecipanti alla mostra dell'87, ha stimolato un confronto, diciamo, intergenerazionale sul tema del progetto della città di Roma e ha pensato, diciamo, ha ideato questa mostra che poi è stata curata da altri. Che è sempre una collettiva di architettura, quindi che ha come tema idee progettuali, architettoniche e anche diciamo urbanistiche sulla nostra città. Com'è stata pensata la mostra? La mostra appunto raccoglie quindi alcuni disegni dell'87 che sono di autori diciamo di quella generazione lì, quindi Alessandro Anselmi, Francesco Cellini, Franz Prati, lo stesso Purini, Laura Dermes. E a fianco a questi disegni vengono esposti dei disegni di architetti che sono giovani adesso, diciamo nel 2017, come per esempio Carmelo Baglivo, Francesco Messina, Luca Garofalo, insomma ci sono circa 12 architetti giovani contemporanei che si confrontano con questi disegni degli anni 80. La mostra è già stata allestita al Palazzo Lucarini di Trevi, che è un museo di arte contemporanea che appunto si trova in Umbria, e appunto nel 2017, alla fine del 2017, adesso viene portata a Roma e viene portata in questo spazio che è il nostro, questa galleria, che si chiama Sinestetica. Senti, quanti sono i lavori esposti? I lavori esposti sono appunto una dozzina nuovi più diciamo una decina di disegni provenienti dalla mostra dell'87 che poi sono di vari formati ed è anche interessante vedere la differenza tecnica tra i disegni degli anni 80, come venivano realizzati e invece i disegni contemporanei che ovviamente sono quasi tutti digitali. In base anche alla tua esperienza, visto che sei il padrone di casa, che differenze noti tra le due idee di città? Ma sicuramente diciamo, sono entrambe delle idee utopiche, nel senso pensate da tecnici, perché sono tutti architetti, però che lasciano molto spazio all'utopia. Tuttavia, probabilmente la differenza è che mentre negli anni Ottanta si rifletteva ancora sul centro della città, proprio sul cuore della città, ho notato che le riflessioni contemporanee si spostano su una percezione della città che è a scala più ampia, più territoriale. Quindi questa è sicuramente una differenza. Sì. Senti, ci parli anche un po' dello spazio Sinestetica? Sì, lo spazio è uno spazio che è nato in realtà nel dicembre dell'anno scorso, quindi da pochi mesi, ed è uno spazio che ospita, pensato per ospitare diverse forme di espressione, quindi si entra, diciamo, in una prima sala che è di fatto una libreria per case editrici indipendenti romane soprattutto, in cui però c'è anche un angolo bar, diciamo un caffè, quindi unisce la letteratura, diciamo, ecco, all'enogastronomia. E poi c'è la seconda sala che è quella in cui avvengono tutte le attività, fra cui quella principale, appunto quella espositiva, perché siamo innanzitutto una galleria d'arte. E poi però in questa sala avvengono anche concerti di musica classica, di musica jazz, proiezioni cinematografiche, le presentazioni dei libri. Insomma, è un po' una sala polifunzionale, attrezzata per diverse manifestazioni culturali. E poi c'è un cortile che invece è uno spazio un po' più dello stare, per leggere magari o per svagarsi. Ed è nel quartiere Montesacro che, diciamo, è una realtà in cui questo tipo di cose sono piuttosto rare, insomma. Senti, come sarà articolata anche la conferenza, tornando all'iniziativa di Sì, la sabato. conferenza sarà appunto un'inaugurazione, quindi sarà allestita la mostra nella sala espositiva, mentre invece all'esterno si terrà questa conferenza in cui interverranno i due curatori che sono Maurizio Coccia ed Enrico Anzaloni e Franco Purini, che appunto è questo l'ideatore e diciamo, l'anello di congiunzione fra le due mostre, fra quella dell'87 e quella del 2017. Quindi ci saranno i loro tre interventi. E dopo si potrà visitare la mostra per prendere un aperitivo. Ok, ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, il nostro sito è sinesteticaexpo.com, la nostra pagina Facebook è Sinestetica e la nostra pagina Instagram è Sinestetica Expo. Benissimo, allora ripetiamo l'invito di sabato 5 maggio a Sinestetica con la mostra 1987-2017 Roma allo specchio, l'immagine della capitale tra passato e futuro. Pietro, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, credo il lupo, buona serata.